La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 27 novembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Un saluto a tutti coloro che ascoltano la puntata in onda il sabato mattina e un saluto a tutti coloro che ascoltano la replica del mercoledì. Come saprete, cari radioascoltatori, l'universo è popolato da oggetti più o meno esotici. La palma però di oggetto più esotico di tutti se la prende sicuramente il buco nero. Il buco nero è fondamentalmente un cadavere di stella. All'interno del buco nero la gravità è talmente alta che non riesce a uscire né la materia né la luce, ed è per questo che si chiama buco nero, perché assorbe sia la materia sia la luce, quindi non emette radiazione. Nel 1974 il grande astrofisico Stephen Hawking dimostrò che una parte della radiazione, dell'informazione dal buco nero poteva, aperte e chiuse virgolette, evaporare. Questa cosa si chiama la radiazione di Hawking. Ora, si dà il caso che questo particolare tipo di radiazione sia stata rilevata in laboratorio. Ed è quello di cui parleremo quest'oggi, perché un articolo uscito qualche giorno fa sul Physical Review Letters parla appunto di questo, e noi ne parleremo col secondo autore di questo paper. Si chiama Sergio Cacciatori ed è ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Matematica dell'Università di Insubria nella sede di Como. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Sergio, come al solito noi abbiamo 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. Ora, in queste 100 parole, vorresti dare un'indicazione di qual è il contenuto di questo lavoro che poi andremo a sviluppare meglio nella seconda parte della trasmissione? Beh, si parla della riproduzione di un effetto previsto anni fa da Hawking, appunto, che è la generazione di fotoni dal vuoto quantistico per la presenza di un orizzonte degli eventi. Che cos'è un orizzonte degli eventi? Nel caso di un buco nero, tutti sappiamo che c'è una regione, detta orizzonte del buco nero, una superficie che diciamo può essere attraversata verso l'interno di questo buco nero, ma non può essere riattraversata verso l'esterno, quindi è attraversabile solamente in una direzione, verso l'interno. Quantisticamente quello che accade è che in realtà il vuoto non è realmente vuoto come noi lo immaginiamo, quindi se vicino al buco nero c'è un vuoto, nella realtà quantistica quello che accade è che il vuoto è come un ribollire di materia ed antimateria, le particelle che si creano e si ridistruggono così rapidamente da non poter essere misurate. Quello che accade è che se l'antimateria prodotta viene assorbita da questo orizzonte, la materia corrispondente che era prodotta assieme sfugge, causando una evaporazione del buco nero. Questo è l'effetto scoperto da Hawking, cioè l'effetto Hawking. Quindi è un effetto quantistico generato da una geometria complicata dello spazio-tempo. Sergio, intanto ti ringrazio per quello che hai detto e ti ringrazio soprattutto per la sintesi. A questo punto ci lasciamo per un attimo, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale e poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione, come nostro solito, andremo a sviluppare un pochino gli argomenti in maniera del tutto generica, cercheremo di spiegare che cos'è la radiazione di Hawking, cercheremo di spiegare che cos'è un buco nero e cercheremo di spiegare perché è tanto importante aver individuato la radiazione di Hawking all'interno di un laboratorio. E nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo espressamente del contenuto dell'articolo uscito qualche giorno fa sul Physical Review Letters. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Calciofotone. Un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando la puntata in onda in radio e un saluto soprattutto a tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite podcast. In questa trasmissione ci stiamo occupando di un tipo particolare di radiazione, si chiama la radiazione di Hawking, ma non ne stiamo parlando dal punto di vista cosmologico, cioè come avviene la radiazione di Hawking nei buchi neri, ma stiamo parlando di che cos'è la radiazione di Hawking e come si verifica in laboratorio. E questo è infatti il contenuto di un articolo uscito qualche giorno fa su Physical Review Letters, e noi siamo al telefono col secondo autore di questo articolo, si chiama Sergio Cacciatori ed è ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Matematica dell'Università dell'Insubria. Sergio, all'inizio abbiamo cercato di spiegare che cos'è la radiazione di Hawking dal punto di vista quantistico e ce l'hai spiegato nelle 100 parole iniziali che hanno introdotto la trasmissione. A questo punto però siamo nella prima parte. Come al solito nella prima parte cerchiamo un po' di descrivere gli argomenti al contorno o almeno di dare il glossario degli argomenti che tratteremo effettivamente nella seconda parte della trasmissione, dove discuteremo del contenuto del vostro articolo. Ora, dal punto di vista invece cosmologico, la radiazione di Hawking che cos'è? Ecco, dal punto di vista cosmologico, la radiazione di Hawking è l'emissione da parte di un buco nero, per causa di effetti quantistici, di particelle che possono essere elettroni, fotoni, diciamo, più la massa delle particelle è piccola, più è probabile che vengano prodotti, che quindi causano l'evaporazione, la diminuzione della massa di questo buco nero. Non solamente, ma in astrofisica c'è un secondo effetto ed è il fatto che queste particelle si termalizzano a una determinata temperatura. Cosa vuol dire che si termalizzano? Se noi prendiamo un gas di particelle e le mettiamo in una scatola che ha contatto con una piastra a una determinata temperatura, piano piano questo gas tende a raggiungere anche lui la stessa temperatura della piastra e quindi diciamo che si termalizza. E allora in un buco nero astrofisico quello che accade è che queste particelle non solo vengono emesse e quindi si forma un gas di particelle attorno al buco nero, ma queste termalizzano a una temperatura ben determinata che dipende dall'accelerazione di gravità, grosso modo, sulla superficie di questo buco nero. Ecco Sergio, appunto con quello che hai appena introdotto, quindi la termalizzazione, hai un po' introdotto anche il secondo argomento di cui parleremo in questa prima parte, cioè il concetto di corpo nero. Corpo nero, buco nero, dal punto di vista terminologico sembrano uguali, ma c'è una grossa differenza e uno dipende dall'altro. Che cos'è un corpo nero? Beh, un corpo nero è un oggetto quasi ideale nei confronti della radiazione elettromagnetica, nel senso che è un oggetto che è in grado di riemettere tutta la radiazione assorbita quando ne è investito. Per esempio, noi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei corpi neri, oggetti che possiamo identificare quasi come un corpo nero, per esempio un forno. All'interno di un forno, quando noi lo accendiamo e si scalda, quello che accade è che la temperatura aumenta e questo avviene perché c'è della radiazione elettromagnetica che viene prodotta all'interno di questo corpo e poi va, ne colpisce le pareti e viene sostanzialmente assorbita ma riemessa nella stessa quantità in cui viene assorbita. Quello che accade se si ha a che fare con un corpo del genere, cioè che è in grado di riemettere tutta la radiazione che assorbe, è che questa radiazione a un certo punto trova un equilibrio a una temperatura ben determinata, che si chiama la temperatura del corpo nero. Anche il Sole, benché sia tutt'altro che nero alla vista, può essere descritto fisicamente in modo molto simile a un corpo nero, perché diciamo ha questa proprietà di assorbire e riemettere la luce. Stai dicendo, Sergio, quindi che con l'andare del tempo il buco nero potrebbe perdere dell'informazione? Un buco nero, questa è una questione molto complicata. Diciamo, questa era stata la prima osservazione seguita dalla scoperta di Hawking. Diciamo che crea dei problemi importanti al concetto di conservazione dell'informazione che abbiamo, nel senso che un buco nero è in grado di assorbire qualunque tipo di materia e quindi assorbe molte informazioni, perché lui assorbe elettroni, assorbe fotoni, potrebbe assorbire esseri viventi, altre stelle, e poi riemette invece una radiazione termica che si è dimenticata completamente della natura degli oggetti di cui il buco nero, per così dire, si è nutrito. Quindi è come se lui assorbisse moltissima informazione, assorbe materia di ogni tipo, di ogni genere, e poi riemette una radiazione che grosso modo è uniforme e non contiene più nessuna delle informazioni che il buco nero ha cancellato. In questo senso c'è una perdita di informazione. Ti ho voluto fare questa domanda, Sergio, non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista storico, perché nel 1997, e questo è famoso, anzi precisamente il 6 febbraio 1997, venne fatta una scommessa fra Stephen Hawking e John Preskill. Adesso leggo la scommessa che i due duellanti siglarono con in palio un'enciclopedia scelta dal vincitore. Mentre Stephen Hawking, insieme a Kip Thorne, crede fermamente che l'informazione inghiottita da un buco nero sia nascosta per sempre all'universo esterno e che non venga mai rivelata nemmeno se il buco nero evapora e scompare completamente, John Preskill crede invece fermamente che un meccanismo per il rilascio dell'informazione nell'evaporazione del buco nero possa essere trovato in una corretta teoria della gravità. La scommessa è accolta e questa scommessa venne siglata a Pasadena il 6 febbraio 1997 in California. Hawking sosteneva, basandosi sulla sua teoria, che quello che ho raccontato poco fa, cioè che effettivamente tutta questa informazione viene assorbita e non riemessa. Tuttavia le teorie più moderne, come la teoria di String, prevedono che man mano che il buco nero evapora, quando diventa molto piccolo, il suo comportamento descritto in termini della teoria della relatività generale, diciamo della teoria fisica che è usata per un buco nero molto grosso, cambia abbastanza al punto che questo orizzonte a un certo punto può scomparire completamente, e in realtà tutte le informazioni che erano nascoste dietro questo orizzonte degli eventi tornano alla luce e quindi vengono rimesse sul mercato, per usare un termine semplice. Tuttavia non è ancora una teoria fisica comprovata, quindi io non sarei tanto convinto che Hawking abbia veramente perso la scommessa. Ok, allora con questo dubbio ci lasciamo per un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione, come promesso, andremo a parlare del contenuto di questo articolo, cercheremo di capire come avete realizzato questo esperimento e soprattutto quanto è importante aver dimostrato la radiazione di Hawking in laboratorio. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Con la chia bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Cacciafotone. In questa puntata, attenzione attenzione, ci stiamo occupando di un effetto particolarissimo, interessantissimo. Si chiama la radiazione di Hawking, abbiamo provato a spiegarla nella prima parte della trasmissione e ne stiamo parlando col dottor Cacciatore, ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Matematica dell'Università dell'Insubria. Abbiamo al telefono proprio il dottor Cacciatore perché lui è secondo autore di un articolo uscito qualche giorno fa sul Physical Review Letters in cui si dimostra che si può riprodurre la radiazione di Hawking non solo nello spazio ma anche in laboratorio. Ora, la radiazione di Hawking è tipica dei buchi neri. Andiamo al nocciolo della questione. Come si fa a riprodurre la radiazione di Hawking in laboratorio e quindi in assenza di un buco nero? Dunque, abbiamo detto che l'origine della radiazione di Hawking è la geometria complicata dello spazio-tempo, e che non è sufficiente, è una geometria complicata nel senso che lo spazio-tempo si comporta come un oggetto curvo, uno spazio e un tempo curvi, concetto non facilissimo da comprendere, ma anche, oltre a questa proprietà complicata, ha la proprietà di avere un orizzonte degli eventi, cioè una regione che è attraversabile in una sola direzione e non nell'altra, a livello classico. Quindi per riprodurre l'effetto Hawking in laboratorio, l'idea è di riprodurre simultaneamente queste due condizioni, simulare uno spazio-tempo curvo e anche un orizzonte degli eventi, cioè una regione che possa essere una superficie che possa essere attraversata in una direzione ma non in quella opposta. Allora Sergio, i problemi da affrontare sono tanti, quindi andiamo per gradi. Andiamo a guardare quindi prima di tutto la prima immagine, la figura 1 del vostro lavoro. Per i nostri ascoltatori, se cliccate sul sito www.cacciafotone.it, a sinistra del post vi si aprirà un'immagine più grande. Questa immagine l'abbiamo divisa in due parti, un'immagine figura 1 e l'immagine che è poi la figura 2. Partiamo dalla figura 1. Ci vorresti dire, Sergio, esattamente che cosa descrive, visto che effettivamente descrive il funzionamento e come è andato l'esperimento? Certamente. Allora, l'esperimento si svolge in questo modo. L'oggetto che simula la deformazione dello spazio-tempo è un pezzo di silicato puro, quindi sostanzialmente un pezzo di vetro, nel quale bisogna riprodurre una geometria complicata. Come viene riprodotta questa geometria complicata? Viene riprodotta inserendo in questo pezzo di vetro un impulso laser molto molto intenso. Quindi questa immagine, partendo da sinistra, ci mostra come sostanzialmente un iride, una membrana forata, ci permette di selezionare un raggio laser molto sottile che poi tramite una lente focalizzante viene concentrato in una regione molto piccola e va a colpire il pezzo di vetro in una regione molto piccola, in maniera tale che in questo pezzo di vetro si generi un impulso molto intenso. Questo impulso, muovendosi, simula, come magari discuteremo più tardi, un buco nero che deve emettere una radiazione. Radiazione che noi osserviamo a 90 gradi rispetto al nostro bersaglio di vetro. E quindi diciamo le palline che vediamo uscire lateralmente rappresentano i fotoni che noi andiamo ad osservare con una lente e che vengono poi catturati da uno spettrometro e contati da una CCD. E quindi come vi siete accorti che quei fotoni che stavano uscendo dal pezzo di vetro erano effettivamente l'effetto della radiazione di Hawking? Questo esperimento ha rilevato il fatto che in presenza effettivamente di un orizzonte degli eventi, cioè membrana, questa superficie semipermeabile in condizioni di uno spazio-tempo curvo simulato nel pezzo di vetro, vi è una produzione di fotoni che corrisponde sostanzialmente a quella di Hawking, predetta diciamo dalle condizioni Hawking. Un'altra domanda, visto che di curiosità ne ho tantissime, non basterebbe forse tutta la trasmissione di Caccia Fotone per togliermi tutte le curiosità che ho. A che frequenza l'avete sparato il laser all'interno di questo pezzettino di vetro? Beh, viene sparato a una frequenza che corrisponde a una lunghezza di 1055 nanometri, quindi diciamo nell'infrarosso. Bene, a questo punto Sergio andiamo alla seconda figura, la seconda figura che in realtà descrive un effetto particolare, l'effetto della fluorescenza. Nel vostro lavoro descrivete che la fluorescenza è stato un problema nel realizzare questo esperimento. Che cos'è la fluorescenza? Fondamentalmente è la proprietà che ha un qualche materiale, un qualsiasi materiale, di riemettere la radiazione che passa attraverso di lui, e quando la riemette a una lunghezza d'onda più alta e quindi ha una energia un pochino più bassa. Ecco, la domanda è questa: perché la fluorescenza in questo lavoro si è rivelata un problema da risolvere? Perché all'interno del vetro ci sono moltissimi processi, quindi noi vogliamo osservarne uno particolare, che è l'effetto Hawking, che è un processo molto, in realtà molto debole, difficile da rilevare. Molti dei processi che avvengono nel vetro, per esempio, sono lo scattering, la riflessione della luce che colpisce gli atomi, gli elettroni contenuti nel vetro, e questi sono facili da caratterizzare perché sostanzialmente comunque questi avvengono in avanti e noi facciamo delle misure a 90 gradi. La fluorescenza, che è sostanzialmente il fatto che gli atomi quando vengono colpiti si eccitano e rimettono una radiazione con spettri ben precisi, invece viene emessa in tutte le direzioni, anche a 90 gradi. E quindi questa luce di fluorescenza, che è più intensa dell'effetto che ci aspettiamo di vedere, copre, nasconde l'effetto Hawking e quindi rendeva le misure molto molto difficili. Per fortuna, per i vetri molto puri, quindi per i silicati, le fluorescenze sono perfettamente note. È sufficiente prendere un pezzo di vetro, colpirlo con dei raggi laser, lui si eccita e riemette questi picchi con frequenze ben precise, che sono perfettamente noti, e quindi si possono sottrarre dalle misure per poter vedere lo spettro diciamo residuo rimanente, che è quindi dato da effetti diversi dalle fluorescenze. Sergio, ti ho lanciato questa palla perché nel vostro paper voi scrivete espressamente A, che la fluorescenza è stato un problema, e B, che la risposta dello strumento è migliore fra gli 800 e i 900 nanometri. Sì, perché questa, come si può vedere appunto nella figura 2, la figura a sinistra, nella figura 2 si vengono mostrate le fluorescenze. Allora, come vedete, nella figura verso destra, sopra i 700-800 nanometri, c'è una regione piatta, una regione in cui non ci sono fluorescenze, a parte un picco, che è il picco R, un picco a 1055 nanometri, che è quello del segnale che mandiamo noi in ingresso, però c'è una regione piatta, per cui se uno riuscisse a far produrre radiazione Hawking in quella regione, non ci sarebbe nemmeno il problema di dover sottrarre le fluorescenze. Altra domanda clou: siete davvero sicuri che quella che avete rilevato è radiazione di Hawking? Potrebbe essere qualcos'altro oppure no? Beh, naturalmente è un esperimento ancora iniziale, non c'è mai una certezza assoluta. Noi siamo fortemente convinti e qualunque altra spiegazione, diciamo qualunque altro fenomeno fisico noto, non è in grado assolutamente di spiegare le misure che osserviamo, se non appunto l'effetto Hawking. È l'unico che è in grado di farci delle previsioni sia qualitative che quantitative sui risultati della misura, quindi diciamo è un indizio molto forte. Però ci sono ancora molte prove da superare per dimostrare che questa davvero sia radiazione di Hawking. Dunque, l'effetto Hawking è un effetto quantistico nel quale vengono prodotte delle coppie. Queste coppie, si dice, sono correlate, cioè quando viene prodotta una particella, viene prodotta anche una particella che si muove nella direzione opposta, con caratteristiche speculari rispetto alle caratteristiche che la prima particella. Qui nella figura 1, per esempio, vediamo, abbiamo mostrato che noi osserviamo da una parte i fotoni uscenti, ma ci sono anche quelli che corrispondenti che escono dall'altra parte. E allora, per verificare che veramente quello che osserviamo è un effetto quantistico, dovremmo vedere che questi sono correlati, questi vengono prodotti a coppie. Quindi, se avessi la possibilità di disporre di una seconda CCD, messa diciamo specularmente rispetto a questa, dovremmo vedere che quando i fotoni arrivano, loro vengono registrati con un'immagine esattamente speculare a quella che vediamo nell'altra CCD. E questo mostrerebbe che questi sono correlati. Purtroppo noi disponevamo di una sola e non abbiamo potuto fare questa misura, quindi questa è una cosa che in futuro vorremmo fare. Allora Sergio, siamo in conclusione di trasmissione, quindi ti faccio l'ultima domanda, che è poi quella classica che ormai da qualche settimana sto facendo a tutti gli intervistati qui a Cacciafotone. Se dovessi ricordare una cosa fra tutte quelle che ti rimangono in testa dal momento in cui è cominciata questa ricerca, al momento in cui questa ricerca è finita su Archive, al momento in cui da Archive è finita sul Physical Review Letters, quale delle tante cose ti porti come bagaglio all'interno del tuo zainetto da ricercatore? Quale cosa ti ricorderai di più? Beh, questo è un lavoro di 2 anni che è iniziato nel luglio del 2008, quindi è un lavoro molto duro. Quello che ricordo di più è l'emozione grandissima che ho provato nel momento in cui nell'esperimento, dopo oltre un anno che noi costruiamo i modelli teorici, abbiamo fatto le nostre predizioni, quello che si osservava, diciamo la finestra di frequenze che noi vedevamo emesse, era esattamente quella che era predetta dalla condizione di Hawking, e quindi voglio dire, questa è un'emozione molto forte. Un'emozione purtroppo che può provare solo un ricercatore, e che purtroppo ancora, se continua così, se continuano a tagliare i fondi alla ricerca scientifica qui in Italia, molte meno persone potranno provare. Con una nota di rammarico si chiude questa trasmissione di Cacciafotone. Saluto i nostri radioascoltatori, coloro che stanno ascoltando la trasmissione in onda il sabato mattina e coloro che stanno ascoltando la replica del mercoledì. L'appuntamento è, come al solito, settimana prossima, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti e che la ricerca sia salva. Grande Giove.